Uno, nessuno e 100 Milan, una trasmissione radio che ti fa capire che è meglio lavorare in radio che andare a lavorare. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Allora, signori, siamo qui alle 9 e 7 minuti. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 a Milano con una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Anche oggi arriveremo alle 10.45. Saluto Miriam Lucchetti in redazione insieme a Lorenzo Nespoli, il nostro alpino in regia, la nostra Elisabetta Fusconi, boh, in giro per la Svizzera. Possiamo subito partire, caro alpino, partiamo. Premier, per caso. Io voglio accogliere così l'ospite che l'ultima volta ci è venuto a trovare, così lo avevo accolto anche l'altra volta. È Mario Calabresi che torna con noi, senti. Non ho capito perché io debba essere accolto con la marcia funebre. No, non è, no, non è assolutamente. È che è una settimana fa che è partito tutto questo delirio e, insomma, una settimana fa eravamo così, più o meno, no? In questo atteggiamento. Però le cose cambiano improvvisamente. È passata una settimana, signori! Eccoci qui! Corriere della Sera, virus crescono anche i guariti. Il Messaggero, più guariti, virus mutato in Italia. Avvenire, c'è voglia di ripartire. Fino al Quotidiano Nazionale, morti di coronavirus in Italia, zero, zero, zero. Libero, devo dire, più onesto, il virus ci ha stufati, la normalità è vicina, cioè i titoli, ci ha rotti le balle di fare i titoli sui virus. Mario Calabresi, è finito tutto! Siamo... No, no, non è ahimè, finito. Non è finito tutto. Non è finito, diciamo, tutto. Così, che c'è una sorta, secondo me nei cittadini c'è una sorta di... ieri si sentiva, soprattutto nelle cose a Milano, una sorta di ribellione. Vabbè, ma basta, non è che si può stare tutti così come così, l'ultima sospesi, settimana, sì. Sospesi come la settimana scorsa, e i ragazzini da rimandare a scuola. E poi partono con cose che uno dice, vabbè, non è che sono sostanziali. Beh, è stato riaperto il Duomo e la gente dice, sì, ho capito, ma le scuole sono ancora chiuse. E questo è il grande tema, decideranno nel weekend. Ci sono le chat delle mamme che ci riversano di richieste, informazioni, come se io sapessi qualcosa in più. Tu ecco, abbiamo qua un direttore, tu saprai se lunedì ripartono le scuole e riaprono le scuole a Milano e Lombardia. Penso che non lo sappia nessuno. No, neanche il governatore con la mascherina lo sa ancora. Allora, il governatore con la mascherina, guarda, te lo faccio sentire, no, perché il grande tema, al di là degli scherzi, è chiaro che non c'era la marcia funebre venerdì scorso, come non c'è tutto finito oggi, è il tema della comunicazione. Secondo me su una grande riflessione poi andrà fatta su come è stata gestita e come si sta gestendo la comunicazione. Per esempio, se il presidente della regione Lombardia mette la mascherina, tra l'altro mettendola in modo un po' goffo, viene oggi immortalato con fermo immagini con la mascherina sugli occhi invece che sulla faccia. Sentiamolo in questo video. Oggi ho già passato la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farla nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa, se mai dovessi positivizzarmi, se mai dovesse nei prossimi giorni essere contagiato da questo virus, per evitare che qualcuno possa essere da me a sua volta. E poi indossa la mascherina. Come è stata gestita la comunicazione secondo te in questi giorni, Mario? C'è stato, nella prima fase, indubbio che c'è stato un eccesso. I titoli, soprattutto dei primi giorni, sono stati tanto enfatici. Una cosa pericolosissima, che se si facesse su qualunque cosa avrebbe effetti devastanti, è la conta. La sì. Conta dei morti. Se noi facessimo la conta dei morti sulla strada di tutti i giorni, la gente smetterebbe di andare in macchina. Forse sarebbe anche utile per sensibilizzare al problema. Questa conta dei soli morti ha avuto un effetto di panico e secondo me ha influito tantissimo sulla popolazione e ha influito sulla politica, che a quel punto non, per non rischiare niente, chiude tutto il possibile, blocca tutto, sì, per non essere mai accusato di aver sottovalutato. Sì, a proposito dei conti, però l'ultima cosa poi di cui avremmo bisogno in questi momenti, anche di incertezza per i cittadini che non sono esperti, sono le discussioni tra scienziati, perché laddove uno vede che neanche la scienza è unita, allora ieri giustamente secondo me la stampa lo mette in titolo di apertura, c'è stata questa diatriba tra Ricciardi, che è stato nominato insomma dal governo per gestire la situazione anche come dati, che ha detto no, attenzione, i contagiati vanno verificati all'Istituto Superiore di Sanità, finché non c'è una doppia verifica da Roma non si può fare nulla. L'infettivologo del Sacco, Galli, professor Galli, da Milano ha detto ma cos'è questa cosa assurda, addirittura dovremmo attendere una doppia conferma da Roma, non esiste. Però la doppia conferma non è per dire per dire se uno è malato o no, la doppia conferma è per dare i dati in giro. Faccio un esempio, si è detto a un certo punto a Torino c'erano 4 malati e si chiudono le scuole, poi invece ce n'era uno soltanto. Da questo punto di vista, questa idea che qualunque fonte, persona, ospedale diffonda i suoi numeri, alla fine porta a dare i numeri. Sì. C'è una cosa, è importante secondo me per la salute mentale di noi tutti, che accanto al numero dei morti, e questo finalmente sta accadendo oggi in maniera quasi plateale, ci siano anche i numeri dei guariti, cioè sì, si guarisce molto di più di quanto si muore. Grazie al cielo, e quindi però sottolinearlo ci dà già una possibilità di respirare. Detto questo, tutto quello che è stato fatto, potremmo dire forse un giorno che è stato esagerato, speriamo di poterlo dire che è stato esagerato, però al principio di precauzione non mi pare una follia, per cercare di capire, visto che siamo di fronte a un virus che non conoscevamo, per cercare di capire cosa succede, non è sbagliato. E poi vediamo che se da un lato noi oggi diciamo la normalità è vicina, è tempo di ripartire eccetera eccetera, il mondo intorno a noi è preoccupato quanto noi l'avevamo una settimana fa. Ma non so, faccio un esempio qualunque. Facebook tutti gli anni fa una conferenza a maggio in cui prende tutti gli sviluppatori del mondo. L'ha cancellata. Ed è a maggio. È l'8 e il 9 maggio. I giapponesi iniziano a essere seriamente preoccupati per le Olimpiadi, tanto che stanno pensando adesso, per cercare di arginare tutto, fanno il quadruplo di quello che facciamo noi, vogliono chiudere le scuole anche per un mese. Anche perché forse da noi adesso è arrivato, stiamo vivendo questa situazione, ma già in Francia si teme il rischio dell'arrivo, come dire, della seconda ondata. Cioè quello che è arrivato da noi potrebbe nel giro di pochi giorni rivelarsi anche nel resto d'Europa. E quindi la previsione di maggio non è neanche sbagliata. Forse, come dire, lì arriverà qualche mese dopo. Però, allora, Mario, tra l'altro tra poco, Mario Calabrese è anche un po' un veggente, ma non svegliamo ora, perché oggi mi è arrivata la tua newsletter e ho detto ma come? Una delle storie l'ho trovata anche sui giornali. Ma prima vogliamo salutare il primo ospite, perché un'altra tematica che si è verificata, un altro timore che diceva proprio a questi microfoni qualche giorno fa il professor Burioni è questo: attenzione, perché anche quando anche solo una percentuale, che ne so, il 3%, il 4%, il 5% delle persone infettate dovessero essere gestite in reparti di rianimazione all'ospedale, e noi non abbiamo tanti letti deputati a questo tipo di gestione ospedaliera. Gianluca Galimberti, lei è il sindaco di Cremona, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, a Cremona, se ho capito bene, sono finiti i letti dei reparti di rianimazione e bisogna spostare i malati di altre patologie per far posto agli infettati, e qual è adesso la situazione lì a Cremona? Ma allora, la situazione interna all'ospedale, giusto che siano le autorità sanitarie evidentemente a raccontarla e rapportarla in una maniera corretta. Sicuramente c'è stata dei complimenti anche alla gestione interna a tutti i medici, perché poi bisogna dirlo sempre, ci sono medici fantastici che stanno lavorando tantissimo in questi giorni, c'è stata una riorganizzazione interna molto forte proprio per poter affrontare questo impatto di numeri, ma anche perché c'è stato un servizio che l'ospedale di Cremona ha fatto ad altre realtà, quindi penso che si sia dato un contributo significativo e lo si stia dando ancora. Quindi è chiaro che è necessario, ma davvero senza alcuna polemica, in spirito totalmente collaborativo, è chiaro che è necessario avere la regione che aiuta in questo momento, sì, in maniera particolare. Ma si è capito come mai a Cremona questo numero alto? Cioè è sempre la vicenda Codogno, lo ma stesso focolare? Siamo legati sicuramente, come tutta la Lombardia, no? È stato spiegato ampiamente che siamo tutti legati a quel focolaio. E ovviamente noi siamo un territorio limitrofo, essendo un territorio limitrofo abbiamo anche nei tre momenti fatto un servizio rispetto a quel territorio, appunto, che è stato in particolare colpito dal focolaio. Sì. Quello che voi avete detto è chiaramente un tema, per cui mantenere l'equilibrio corretto tra la giusta prudenza in questo momento, senza farsi prendere da nessun panico, ma fare i passi giusti senza né accelerazioni né, per carità, misure eccessive, ma mi sembra che sia quello che stia avvenendo in questo momento. Mantenere il giusto equilibrio è importante, perché una delle questioni è appunto la possibilità di avere dei posti eventuali, nelle terapie intensive per poter venire incontro a quelle persone. Ricordiamo soprattutto le persone più fragili, quindi le persone più anziane che hanno magari alcune fragilità. Quindi bisogna fare i passi giusti al fine di trovare appunto rimedio a questa situazione. Sì, sì, sì. Chiaramente la regione qui sta lavorando molto, lo dico davvero, e ne sono convinto, e deve trovare però risorse ulteriori, e anche il governo, perché soprattutto l'ospedale di Cremona, questo l'ho chiesto ieri ufficialmente, soprattutto l'ospedale di Cremona, un aiuto c'è bisogno, ma penso anche da altre parti. Che ci saranno, è chiaro. No, ma sindaco, noi la ringraziamo. Insomma, questa è la situazione a Cremona. Gianluca Galimberti, caro Mario, qui il tema della comunicazione. Poi ovviamente adesso i giornalisti vengono messi anche loro, no? Sotto accusa. Io devo dire, non voglio tirare acqua al mulino della radio, però forse le TV, visto che hanno le immagini, hanno un ruolo più delicato in questo, perché se tu fai vedere delle immagini di strade deserte, ospedali dove arrivano l'ambulanza, come ci dicevano ieri l'inviato, è arrivata un'ambulanza all'ospedale. Io notavo una cosa: già un'automobile della polizia o dei vigili che fai dei controlli su una strada, se tu questo video lo giri di notte con i lampeggianti, tutto buio, uno con la mascherina e i guanti, già quello ti sembra un film di fantascienza e non ti sembra un aiuto che si sta cercando di dare per contenere la diffusione di una malattia. A proposito di film, non di film ma di libri, allora è arrivato subito un messaggio di un ascoltatore che dice: oh, finalmente mi è arrivata la newsletter di Calabresi oggi. Beh, sei scritto in ritardo evidentemente, perché è la seconda puntata. Allora Mario Calabresi ha ideato questa newsletter settimanale gratuita, il venerdì, però casualmente venerdì. Oggi che giorno è? Il venerdì. Oggi è venerdì. Tra le storie che proponi oggi, ce n'è una che mi ha molto colpito, perché proponi la storia di questo libro di David Quammen, che è un giornalista scientifico americano. Libro di qualche anno fa, Spillover. È un libro del 2012 che in Italia è uscito nel 2014. Io l'avevo letto allora e mi aveva colpito tantissimo, perché mi raccontava, imparavo delle cose che non conoscevo. È un libro sostanzialmente come se fosse un'indagine. Lui è andato in giro nel mondo e ha raccolto testimonianze, ma anche tutte le documentazioni mediche e scientifiche possibili, per ricostruire queste malattie, questi virus che fanno il salto dall'uomo, dall'animale all'uomo. E lui fa da Ebola, la SARS, l'AIDS, ricostruisce tutte queste cose. E il libro ha, diciamo così, anche... È più faticoso da leggere in un momento in cui hai questo, che quando non hai niente lo leggi con più distanze, senza ansie, senza preoccuparti di lavarti le mani ogni due minuti, di se qualcuno starnutisce per la strada. Però il libro ti spiega esattamente anche come si ripetono gli errori. La SARS, che era un coronavirus anche quello, certo. Era una sindrome respiratoria però più pesante di quello che sta, che stiamo vedendo in questo momento, si sviluppa e fa, lui ti racconta passo dopo passo come fa il giro del mondo in 6 settimane attraverso gli aerei e le casualità. Uno si ammala, infetta il medico che lo trasporta in ambulanza, il medico, questo a Canton, il medico va in ospedale, va a un convegno a Hong Kong, si sente male sull'ascensore, inizia a tossire, c'è una turista canadese che era lì in vacanza che sale sull'ascensore, si infetta, parte, torna in Canada il giorno dopo, in Canada un'infermiera filippina, la prima che l'assiste, l'infermiera si ammala, però prima di avere i sintomi prende un volo e va nelle Filippine per Pasqua dai familiari e ammala tutta l'isola di Luzon. Cioè fa il giro del mondo in pochi giorni attraverso i casi. E quello che dice Quammen, dice la prossima grande epidemia mondiale avrà però, sarà a rischio se avrà le caratteristiche di un'influenza, cioè che è come sta succedendo adesso, cioè l'influenza tu hai il massimo dell'infettività, questo io non sono un infettivologo, se no sembra come quelli che fanno gli allenatori della nazionale di calcio, vi racconto cosa c'è scritto nel libro, dice che il massimo dell'infettività, dell'influenza è prima che tu abbia il massimo dei sintomi, per cui tu la spargi in giro, mentre altre malattie, per esempio come la SARS, prima tu hai i sintomi e poi hai il massimo della virulenza. E questo fatto qui fa sì che molte persone, noi vediamo oggi quando stiamo seguendo il coronavirus, infettano altri senza rendersi conto, sono portatori senza rendersi conto di essere malati. C'è da dire che è questo libro, Spillover di David Quammen, pare che sia tornato prepotentemente nelle librerie, come la peste di Camus, come i libri di Manzoni, no? la storia della colonna infame, oppure i libri. E d'altronde è così, no? C'è anche un mercato della paura. Però questo qua non è della paura, questo è della razionalità. È della razionalità, ti spiega. Perché però tu stesso hai detto che leggerlo adesso magari po' di più. Però no? Ti dice due cose. Uno, ti dice quello che diceva prima il sindaco di Cremona, giustamente l'eroismo dei medici. Sulla SARS viene ricordato Carlo Urbani, medico italiano, che morì. E i medici in questo momento stanno facendo un lavoro incredibile, non va dimenticato. Questo è un punto. E l'altro è che bisogna in questi casi agire con tempestività e da questo punto di vista isolare è una cosa fondamentale. Tempestività. Ieri, caro Mario, è arrivato un ascoltatore da Castiglione d'Adda, credo, un paese della zona rossa, e ci ha detto: sentite, basta questa privacy, io vorrei sapere nomi e cognomi degli infettati, cioè c'è una questione di salute pubblica. È un ascoltatore, io gli ho detto: guardi caro ascoltatore, che se noi dicessimo nome e cognome, che tutti conosciamo noi giornalisti, per esempio di paziente 1, succederebbero delle scene inenarrabili. Io non lo conosco, voi della radio lo conoscete. No, io so chi è, voglio dire, come nome e cognome, non è che lo conosca, questo Mattia, no, che è stato definito Mattia, ma... Poi cosa succede? Succede quello che è successo a Curtarolo, in provincia di Padova, dove una bambina di 8 anni è positiva ed è partita nella chat di classe una serie di messaggi dicendo: la bambina si chiama tal dei tali, il nonno è questo, la foto è questa. Cioè una vera gogna di paese, gogna, non ho altri termini, perché questo poi succede. Allora, attenzione, che cosa serve sapere il nome? È che gente la evita, che la gente in paese evito te, che i tuoi se parenti. Uno è malato stia a casa, debba stare appunto a casa, glielo dicono i medici, e ha il senso di responsabilità, non è che dobbiamo fare. È quello che ho detto anch'io, cioè le autorità sanitarie pensano a isolare queste persone, perché saperne il nome e cognome? Questo ascoltatore dice: io voglio saperlo. Allora vi raccontiamo anche la storia di Lorenzo Bertin, che è con noi, presidente di una cantina sociale a Vo Euganeo. Buongiorno Bertin. Buongiorno. La ringrazio intanto perché lei ci mette il nome e il cognome, perché voi siete produttori anche di vini, ed è vero che avete spedito dei vini, cioè attenzione ascoltatore, casse di vino, e quando il destinatario ha letto la provenienza del vino, che cosa ha fatto? Ve l'ha rispedito indietro con tanto di sdegno quasi. Ma non è proprio così, erano dei campioni, una campionatura per un nuovo cliente, che ovviamente, vedendo che provenivano da Vo, ha detto che in questo momento si sentiva in una condizione di non doverli mettere negli scaffali e che ci avrebbe proposto più avanti la l'acquisto. Cioè, vi rendete conto, caro ascoltatore, cosa serve dire, fare informazione che è qualsiasi pacco, qualsiasi spedizione è immune da virus? Perché non è che il virus si attacca al pacco e viaggia con il pacco. Eppure, Bertin, lei cosa ha provato quando gli è arrivata questa comunicazione? Ma è provato, è un po' un senso di non riuscire a trasmettere a chi sono, non tanto i nostri clienti che ormai ci conoscono da parecchio tempo, sanno come lavoriamo, hanno i nostri prodotti e li hanno sempre usati, ma un senso di impotenza di fronte a queste situazioni. Certo, impotenza, magari anche uno si sente proprio un po' un reietto, diciamo la verità, si sente come un appestato, e sono cose brutte. Per esempio, lei che a Vo, quindi ci sta abitualmente, sente questo clima in qualche modo di, non dico caccia alle streghe, ma voler sapere chi sono gli infetti, voler sapere... No, a me personalmente non ho questa di sapere chi siano i residenti in Vo che hanno contratto il coronavirus. Non mi interessa più sapere in effetti cosa si è intrapreso per far sì che la zona sia sanificata, sia comunque messa nelle condizioni di essere protetta. Questo mi interessa a me. Oggi non a me interessa la condizione della mia azienda, perché sono più preoccupato per la mia azienda che non per quello che purtroppo non conosco e che penso e spero che in scienza e coscienza sia stato preso da chi in questo momento sono gli enti preposti. Lei ha già capito che tipo di danno economico potrà avere alla fine di tutta questa vicenda? Ci sarà una fine di tutta questa vicenda? Sì, spero presto. No, non riusciamo in questo momento a quantificare i danni economicamente, proprio parlando in soldoni. Troppo presto, perché oggi come oggi la mia attività è ferma, siamo in zona rossa e quindi l'attività della nostra cantina è ferma. Non riesco a produrre, non riuscirò a consegnare più avanti. Non so se qualche cliente la pensa come magari quello che ha detto prima, da Vo, non lo posso sapere in questo momento se qualcuno la penserà così. Io spero vivamente di no, insomma. Va bene, noi la ringraziamo Lorenzo Bertini, non lo sappiamo. Guarda qua invece Mario, arriva un messaggio da Marco da Milano che ci scrive: iscritto alla newsletter dalla prima ora, è bellissima, però sono un pediatra ed è più corretto usare il termine contagiosità e non infettività. Vedi? Quindi con una mano complimenti. Ma meno male, grazie. Ed è con l'altra mano però subito. Caro Mario Calabresi, per tutto il resto cosa succede nel mondo? Non lo so, i giornali sembrano annullare tutto. Adesso dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi ti voglio chiedere un attimo della situazione politica. Ieri ho letto questo tweet straordinario del mio amico Federico Novella, ha detto: oh, torniamo alla normalità, crisi di governo, torniamo a parlare. Cioè, incredibilmente si torna a parlare di politica e crisi di governo tra un attimo dopo la... Uno, nessuno, 100 Milan. Oggi ci viene proposto di aprire tutto, però quegli stessi che oggi ci dicono aprite tutto, che non so cosa voglia dire in particolare, ieri ci dicevano chiudete tutto. Ci è stato proposto anche di chiudere e di sospendere il trattato di Schengen. Abbiamo cercato di spiegare che chiudere i confini, perché questo significava chiudere tutto, avrebbe procurato alla nostra nazione un danno irreparabile, irreversibile, economico. Sarebbe stata una soluzione peraltro non sostenibile, non praticabile. L'unico piano shock è mandare a casa Conte, ecco la presa. Premessa necessaria e non sufficiente per un piano di rilancio del paese che non ci sia più Conte a far presidente del Consiglio. Questo mi sembra evidente. Eccoci qua, Mario Calabresi. Da dove siamo? Dove siamo rimasti? Eri rimasta la crisi di governo. anche tu però. Io ti devo dire una cosa. Sai che io non mi appassiono mai al tema crisi di governo, perché è uno dei è come facciamo le riforme, sono quelle frasi italiane che ti viene la nausea. Tu vedi quello e dici, per carità, datemi il Gaviscon. Però ti dico una cosa, io sono stato molto spesso molto critico su Conte, però in un momento così, per una settimana, proviamo a tipo a non chiedere a ci sono, cioè, tre giorni ci sì, sono riusciti, ma provino anche ancora finché le scuole sono chiuse, facciano una moratoria della richiesta della crisi di governo. Poi da lunedì esatto, poi liberi fare tutti, così, se da lunedì tutti riaprono le scuole potete ancora tornare a giocare con la crisi di governo, ma fino a lunedì fateci dedicatevi un attimo di attenzione a questa cosa. Come hai notato, sono un po' fissato a questa storia delle scuole, perché avere due preadolescenti in casa tutto il giorno è una roba terribile. Poi mia figlia doveva essere in questi giorni in Polonia, la visita ad Auschwitz, era tutta una cosa anche che avevano preparato bene a scuola, quindi puoi immaginare anche lo... non so cosa fare. L'ossessione, secondo me, di molti studenti, ma devo dire anche degli studenti. Ieri Angelica a un certo punto mi ha detto: papà, effettivamente dopo un po' è noioso non andare a scuola. A te capita mai con le tue due figlie? No, vabbè, ma guarda che ieri deve essere stata veramente annoiata, per dire una frase del genere. Perché un conto è non andare a scuola e stare in vacanza. Allora, le vacanze estive potrebbero durare 6 mesi che i bambini... Ma stare a casa, nel senso, cioè non c'è neanche il cinema aperto, non c'è neanche un teatro aperto, un museo aperto. Sì, dopo un po' uno si annoia. Anche i bambini, anche la PlayStation annoia alla lunga, questa è la vera notizia. Va bene. Prima di tornare a parlare del coronavirus, mi stavi raccontando una cosa molto interessante che succede al di là del coronavirus, perché il mondo va avanti lo stesso. Mi raccontavi di una catena... Ma no, mi colpiva questa cosa qua, che c'è questa catena americana che si chiama Panera Bread, che è una catena di colazioni, caffè, eccetera, eccetera, che ha fatto un piano di abbonamento per cui tu paghi $8.99 al mese e puoi bere un numero infinito di tazze di caffè. Puoi andarci tutte le volte che vuoi, tutti i giorni che vuoi. Cioè, è l'idea, solo caffè. È l'idea l'abbonamento. Netflix, cioè è l'idea, capito? Tu ti abboni a una cosa, non importa quanta ne consumi. Se tu quel mese ne prendi 3 o il mese dopo 300, capito, tu puoi entrare e bere tutto il caffè che vuoi. Ne prendo 300 e le do tutti, vabbè, gli amici, ma non è che sono tutti come te, cioè non sono italiani. Il problema è che al Panera i clienti di questa catena non sono italiani. L'italiano andrebbe a prendere 10 caffè per darli agli amici, mentre lì invece il cliente va e consuma quello che vuole consumare. No, cioè è una nuova frontiera anche dell'all you can eat, praticamente. Sì, ma questa cosa qua è un po' queste idee degli abbonamenti. Perché poi naturalmente che cosa si pensa? Che tu ogni volta col caffè sei portato ad andare più volte, una volta prendi una pasta, una volta prendi un dolce, un panino, una bottiglietta d'acqua, per cui comunque entri più volte e sei attirato poi dal fatto di spendere. Siamo ancora all'ABC, guarda, un'ascoltatrice ci scrive: come ci si iscrive alla newsletter di Mario Calabresi? Allora, grazie, questa qua non gliel'ho fatta fare io, la ringrazio, guarda, signora. Guarda, Fabrizia da Verona chiede questo. Grande. Allora, mariocalabresi.it o.com. Se siete, Mario Calabresi è tutto attaccato. Sì, se siete internazionali, mariocalabresi.com. Se invece siete più sovranisti, mariocalabresi.it vi porta sempre allo stesso indirizzo. E lì c'è scritto. Io li ho messi tutte e due, perché non si sa mai che tu trovi qualcuno che ti fa uno scherzo, cose che succedono. Che tu fai solo it, lui ci fa com, e poi org, viene e ti chiede. Adesso se mi dammi dei soldi se non vuoi che io faccia una finta newsletter di insulti a Milan, roba del genere. Andrebbe moltissimo, per esempio, questa. Io ti consiglio di fare anche calabresi.org, compralo, che non si sa mai. Marco Lombardi, buongiorno. Buongiorno a voi. Marco Lombardi è professore alla Cattolica, insegna gestione delle crisi, rischi della comunicazione, e, insomma, è esperto proprio di questo, come si gestiscono le situazioni di crisi. Come sono state gestite? Perché adesso Mario Calabresi ci diceva, insomma, vabbè, una moratoria su Conte potremmo farla. Qualcuno anche ha detto, però Conte il primo giorno è comparso dalla Protezione Civile 15 volte in video, forse ha dato un segnale, come dire, di allarme, però... Questa magari sarà un'analisi che verrà fatta. Si è sbagliato qualcosa, professor Lombardi? Ma Guarda, io credo che se sulla gestione di questa crisi si faranno un sacco di tesi prossimamente, perché abbiamo messo in piedi tutto quello che la letteratura e quello che avevamo imparato di massima ci diceva di non mettere in piedi. Questo è il punto fondamentale, soprattutto dal punto di vista comunicativo. Ecco, ci spiega, ci fa un elenco secondo lei delle cose che non andavano fatte, che sono state fatte? Beh, in termini di gestione, per esempio, è evidente che abbiamo voluto fare i primi della classe a livello regionale, a livello nazionale. Una crisi va sempre e solo gestita da un solo punto centrale, altrimenti non si va da nessuna parte. La comunicazione di crisi serve a ridurre l'incertezza, mentre qui non si fa che pendolare tra una azione da una parte e un'azione dall'altra, non facendo altro che incrementare l'incertezza. Non ci si è resi conto che soprattutto in una situazione di emergenza è estremamente difficile prevedere tutti gli effetti delle nostre azioni, soprattutto di quelle comunicative, soprattutto nel mondo complesso in cui siamo. Ma guardate l'effetto economico, ce lo siamo cercati noi, sì, sì. Abbiamo fatto, guarda come siamo bravi, noi chiudiamo tutti, vedete, facciamo la quarantena, li blocchiamo dentro, così non c'è più. Poi non pareva vero dall'altra parte delle frontiere nazionali. Bene, avete ragione, usiamo anche noi stessi strumenti, stessa narrativa. Cambiamo il confine, cinturiamo fuori l'Italia e la facciamo affondare. Quindi non ci si è minimamente resi conto che in questo voler dimostrare di essere bravi non ci si rendeva evidente che quello che facevamo aveva delle ricadute che andavano ben oltre lo spazio ristretto della nostra visione. E questo è stato veramente penalizzante in maniera incredibile. Ha ragione Mario a dire facciamo una moratoria. Il tema delle crisi è quello, le crisi richiedono sempre nella loro gestione una moratoria politica, perché se vengono invece, cosa che è occasione per ogni crisi, di dare, se vengono interpretate come un'occasione politica, quindi non per gestire l'evento, la catena di eventi, sì. Ma non si va da nessuna parte, ecco, e qui è stato fatto in questo modo. Una delle cose che emergono, che secondo me hanno ripensate, è che noi abbiamo sempre pensato in questi anni al federalismo, al fatto di distribuire poteri e decisioni, che è una cosa da certi punti di vista molto buona, però su due cose, sulla protezione civile e sulle decisioni strategiche sanitarie si sta mostrando devastante. La protezione civile, che sta in capo a tutti i sindaci e ai governatori, è qualche cosa che non si può vedere. Il governatore delle Marche, che insiste in pugna per chiudere le scuole quando nelle Marche non, praticamente non c'è nulla, è un qualche cosa che non si può vedere, francamente. Certo, abbiamo anche degli aspetti normativi, dobbiamo ricordarli, per cui per esempio il sindaco, non tanto, come sapete, non tanto il governatore regionale, ma il sindaco è responsabile della sicurezza dei suoi cittadini. Però tutto questo è risolvibile, se anche noi possiamo essere d'accordo che una regionalizzazione delle competenze nella normalità va bene. Però stiamo parlando di un'emergenza. Noi, un'emergenza significa che è un fatto eccezionale, che è un evento eccezionale. In funzione di quello possiamo prevedere che per un tempo limitato nella gestione dell'emergenza quelle che sono competenze delegate rivengono assunte centralmente. Sì. Per esempio, sì. Questa è una via che non va a cambiare più di tanto il sistema. No, ma l'idea certo, la centralità serve proprio a evitare che ognuno vada in ordine sparso e decida. Non è dittatura in questi casi, ma certo. È evitare che ognuno faccia come vuole. Sì, il caso delle Marche che citava Mario Calabrese è abbastanza clamoroso, ma io vorrei capire anche, era ospite due giorni fa, non l'ho seguito, da Simone Spezia, ma qual è il motivo per cui, come dire, di testa sua delle Marche hanno deciso la chiusura delle scuole? Perché si risponde alla mobilitazione della pancia dei propri cittadini. Ho capito. Quindi è la cosa più facile. Tra l'altro, guarda lì, il professor Romari, un altro messaggio dice: vabbè, ma tanto se riapro le scuole, voi pensate che i genitori li mandino a scuola? Io sì. Dopodiché, se no, allora cosa? E allora qual è il giorno, me lo dicano, in cui si può tornare a vivere nella normalità? Cioè, qual è questo giorno? Chi lo decreta? Cioè, ci vuole un decreto del governo anche su questo? Non credo. No? Comunque, a me sembra che lei non pensa che... Cioè, I politici su queste cose qua si muovono, secondo me, un caso che ha fatto scuola era quello del sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Vi ricordate quando ci fu l'alluvione a Genova? Lei è stata condannata, anche una vita distrutta da questo punto di vista, appunto per non aver chiuso le scuole, eccetera, eccetera. Da allora c'è una sorta di cosa... Io non voglio rischiare, chiudo tutto, come la medicina così nessuno, non mi medici, assumo la responsabilità. E questo è il meccanismo che mi sembra, e da questo punto di vista al politico invece si dovrebbe chiedere di assumersi responsabilità. Invece qui se l'assumono, ma ognuno per sé, professore. No, ma hai perfettamente ragione, però è un po' un vizio italiano il fatto di non assumersi responsabilità, che emerge in maniera significativa quando abbiamo questo tipo di eventi, per cui non solo assumersi responsabilità, ma anche un sistema normativo che sia in grado di comprendere la difficoltà dell'assunzione di queste responsabilità e tutelare il sindaco in contesti molto particolari come sono questi, perché altrimenti il risultato è peggiore, che è quello di giocarsela comunque lasciando tutti a casa, comunque, oppure non lasciando a casa nessuno, indipendentemente da valutazioni che hanno a che fare con la realtà. C'è poca competenza in questo. Sottolineiamo anche un aspetto: il crisis management al di fuori dell'Italia è una specifica disciplina. Comunicare efficacemente in una situazione d'emergenza non è come comunicare nella normalità. Io semplifico sempre dicendo: in situazione d'emergenza noi siamo un po' dei marchettari del benessere, la nostra è una comunicazione strategica che ha a che fare con vendere una capacità di sopravvivenza agli individui che si trovano in difficoltà. Questo è l'orientamento, è in funzione di questo che dobbiamo costruire tutto il processo comunicativo. Mai capita, va bene. Marco Lombardi, grazie, ovviamente, ci sentiamo presto. Oh, vedi qua adesso Mario, anch'io mi sono appena iscritto. Fabrizia da Verona ringrazia, è andata su Mario, chissà se è andata su mariocalabresi.it o mariocalabresi.org come minacci tu. No, non l'hai registrato e te lo ruberanno e ti minacceranno dietro all'auta ricompensa, potrai tornare titolare. Ti ricordi che anche Beppe Grillo aveva detto che un giorno uno gli aveva comprato beppegrillo.it, ne aveva fatto un pezzo straordinario dei suoi spettacoli e gli diceva uno che si chiamava, non lo so, gli diceva: vuoi indietro il tuo, e dice, beh, lì mi diceva: vuoi indietro il mio nome e cognome, devo pagare. questo succede nel fantastico mondo del web. E, va bene, dobbiamo andare a sentire le informazioni sul traffico. Poi, visto che la newsletter l'ha fatta, adesso ci racconta anche, a parte spargere un po' di terrore con il libro sul virus, hai anche raccontato qualcos'altro questa settimana. Tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Mezzanotte, devo parlare piano che sennò tutti si svegliano alla fine. Volevo solo dire che la comunicazione sul coronavirus in Italia sarà stata anche bipolare, ma qui abbiamo Trump, che mente spudoratamente e dice che il livello è basso. Mi sa che vado a comprarmi le mascherine, che se devo stare 14 giorni in casa con due gemelli di 2 anni, mi sparo. Ciao, buona giornata, io vado a dormire. Stupendo. Questa è la nostra mitica Amina, che fa la delfinologa a Seattle, meraviglia. Ci segue da anni. Era un po' inquietante. Però no, bellissimo questo fare silenzio. La delfinologa a Seattle. Ma che meraviglia. Vedi. Dove ci si iscrive? Esatto. Come si fa a diventare delfinologa a Seattle? Non lo so, Amina, un giorno dobbiamo chiamarla. Avevamo anche chiamato una volta. L'hai chiamata? Sì, una volta sì. Adesso però se dice che è mezzanotte, se è l'una di notte, insomma. Sì, gli svegli i gemelli di 2 anni. Possiamo farle questo scherzone? Svegliamo i gemelli di 2 anni nel pieno della notte, eh? Io ho avuto le gemelle di 2 anni, so cosa vuol dire. Viene a prenderci. Dai, facciamo viene questo scherzo. Prendiamo il numero di telefono di Amina e chiamiamola. Devo prenderlo io, devo cercarlo nella schermata, ragazzi, va bene. Adesso cercherò il numero di Amina e così la disturbiamo a Seattle e speriamo di svegliare anche i suoi gemelli. I gemelli, così insomma. Di 2 anni. Vabbè, a parte spargere appunto del terrore, hai raccontato la storia di Federica Brignone, grande, grande campionessa dello sci. Io ho scoperto da te che è la figlia di Maria mitica, Rosa Aquario, detta Ninna. Ninna Aquario. Faceva parte della Valanga Rosa, sì, sì, con vero, la Magoni, grande sciatrice. Sì. Ma lei è, tanto è la prima donna ad essere in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo, una cosa che non era mai successa. E questo fine settimana ci sono le gare di scia e la Coppa del Mondo arriva in Italia alla, certo, Twil. Ma non tu hai sentito il padre? Sì, perché il padre è il padre che le ha insegnato a sciare. Il padre è maestro di sci e non è mai andato a vedere una sua gara in questi anni perché insegna ai bambini a sciare. Ma la cosa che mi è piaciuta di più, sono andato a trovare Daniele, il padre, che vive in Val d'Aosta, con la famiglia vivono tutti in Val d'Aosta. E io le ho chiesto, mi aspettavo, sai, quelle risposte, come si forma un campione, una campionessa, che mi dicesse con il sacrificio, il lavoro, il metodo, tutte queste cose. E invece lui va andato in controcorrente e mi ha detto, ma niente specializzazione, professionalità esasperate fin da bambini. I bambini non devono lavorare, devono essere liberi e divertirsi. E allora mi ha portato in un vialetto in discesa, una scalinata coperta di neve, e dice, quando aveva 18 mesi la mettevo su questo vialetto con degli sci e la lasciavo scivolare dritta e lei cadeva di faccia nella neve al fondo in un muro di neve soffice. Dice, poverina, la prima volta ho visto che sussultava, ho pensato, se piange non è cosa sua, invece si è alzata e rideva, e da quel momento è diventato un gioco stupendo. Allora, vabbè, l'idea di insegnare delle foto, giocando, sì, delle foto meravigliose, le foto con Alberto Tomba, della Brignone con Alberto Tomba quando aveva un anno e mezzo, la sua Ghedina, prima gara che vince, sì. E sì, devo dire la verità, sono andato lì e a un certo punto ho preso coraggio e ho detto, senta, posso staccare queste foto dai muri e me le rifotografo? E quindi lui mi ha permesso, certo, di raccontare questa storia familiare. Mi interessava, ecco, altre storie per me è raccontare un altro lato, raccontare, certo, com'era una campionessa da bambina e come è cresciuta. Voi dovete sapere che mentre io parlo, sì, cosa vi racconto cosa sta facendo Milan, tutto divertito, è riuscito a trovare il numero della delfinologa di Seattle. Penso, vuole svegliare, scusa, i gemelli. Tu che hai vissuto in America a lungo, questo è un prefisso quindi, di Seattle? Delfinologa, ti voglio dare una mano e salvare i gemelli. Stacca il telefono, togli la suoneria. Scusa, che Milan con l'aspetto del diavoletto. Questo qui, tu su 206. Non è che siccome tu sei esasperato che hai figli a casa, devi svegliare i figli degli altri. Ma no, ma era uno scherzone. Spero che abbia messo Amina e ancora 10 secondi per mettere la suoneria silenziosa. Farà di quelle che dirà, sono andata a dormire nel frattempo. Sentiamo Angela dalla provincia di Milano. Angela, buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci. Allora, dunque, sì, ci tenevo a dire la mia su quanto sta succedendo in questa zona gialla. Sì. Allora, io sono una pediatra, sì, e quindi la vivo dall'interno. Allora, sono dell'idea che questo coronavirus è da mo' che gira, è da un po', sinceramente. Poi, per carità di Dio, la zona di Codogno è stato probabilmente la punta dell'iceberg, ma in realtà già da 2-3 settimane, secondo il mio parere molto modesto, gira in perversa, e a questo punto la mia opinione è questa, diventa anche proprio un'opinione politica, ma ha un senso isolare un eventuale numero di 60 milioni di persone che sono italiani, sì, e invece quindi con tutto quello che ne deriva anche da un punto di vista del danno economico, e questo è il mio pensiero, mentre invece siccome tutti gli epidemiologi dicono che in realtà sono i soggetti anziani, sì, e i soggetti con patologie a rischio che in realtà sono quelli decisamente più soggetti, ma perché, lo so che sembrerà una cosa allucinante, ma perché non isolare loro? Allora, mettere a disposizione, no, perché Ovviamente il governo sta dicendo mettiamo a disposizione dei fondi per risarcire quelli delle zone a rischio, gli imprenditori, eccetera. Quindi sono comunque dei soldi che dovrebbero mettere a disposizione, giusto? Allora perché questi fondi non li mettiamo a disposizione per tutelare, visto che non abbiamo un vaccino? E allora un conto quando c'è un vaccino, allora tipo nell'influenza, con il vaccino noi tuteliamo le persone deboli e ci sta. Ma siccome in questa situazione, che è poco più di un'influenza, perché oggettivamente è, allora Angela, andiamo a chiudere a rischio, però, perché altrimenti No, niente, semplicemente volevo, faceva questa proposta. Proporre di per esempio, siccome andrà avanti per 2-3 mesi sicuramente questa situazione, non per una settimana, perché è ridicola questa cosa, quindi da o mettere tipo in isolamento anche le persone quelle a rischio che dovrebbero andare a lavorare, devono starsene a casa, pagate dallo Stato. Va bene, Angela, si fermi qui perché sarà un'eccezionale pediatra, sulla sintesi dobbiamo un pochino lavorarci, però Mario prima ci ha messo giù e poi ci ha risposto. Amina da Seattle, buongiorno. Che ore sono? Ciao Amina, che ore sono? Luna. Abbiamo svegliato i gemelli? No, sono nella stanza. Amina, ciao. C'è Mario Calabresi che voleva sapere. Io ho cercato di difendere il sonno dei tuoi gemelli, perché sono padre di gemelli. Diceva chiamatela. E Milan invece perfido sperava che suonasse il telefono di svegliarle. Hai capito? Quindi allora, tu quando senti la trasmissione, ricordati che persona è questo Milan. Hai suonato il telefono. No, ma lo capisco, deve vendicarsi perché lui è a casa con i suoi. Esatto. Però io avevamo una grande, tutto è nato da una grande curiosità. Cioè, io vorrei sapere che meraviglia. Tu sei delfinologa a Seattle? Sì. Beh, questo è un nomignolo che mi sono data qualche anno fa, perché io ho cominciato a seguire Milan con Radio 24, quindi si parla tanti anni fa. Sì, si dice cetologa. Cosa si dice? Com'è il termine? Cetologa. Sì. Ecco, ma che cosa fai esattamente? Allora, in questo momento, in realtà dopo che ho finito il mio dottorato a Hong Kong, mi sono spostata a Seattle perché qui vive mio marito e al momento lavoro part time come Marine Mammal Observer, quindi come osservatrice di mammiferi marini. Stupendo. E sto ancora cercando una posizione che sia full time, ma di fatto faccio anche la mamma. Scusa, dove hai studiato delfinologia, che non si dice così, ma io la parliamo così. Io sono di Milano, ho iniziato con scienze biologiche a Milano, ho fatto poi una tesi di laurea esterna, la tesi specialistica esterna in Mar Rosso, in collaborazione con la Tetis. Ogni tanto avete avuto qualche ospite della Tetis che è lì di Milano. E da lì poi ho trovato il mio supervisor per il dottorato, sempre lavorando, cioè la mia parte di campo era sempre in Mar Rosso, ma all'Università di Hong Kong. E poi Seattle, per amore. Io voglio rinascere per fare quello che hai fatto. Allora, tu. Amina, noi dobbiamo chiudere la prima ora. Spero di non avere svegliato i gemelli. Mamma mia, questa è proprio una paraculata di quelle. Cioè, dopo averla chiamata tutto il tempo, spero di non aver però svegliato. Però siamo riusciti i gemelli a finire la prima ora con una cosa bella e serena. Bella. E io di questo sono contento. Certo. Grazie, Amina. Buonanotte. Certo, grazie a voi. Viene da Milano, non dirlo troppo forte di questi tempi. No, anche da Hong Kong, milanese di Hong Kong, sarebbe peggio Hong Kong. Esatto. Grazie Amina, buonanotte da Seattle, hai capito? Vedi la bellezza della radio, arriva in tutto il mondo con un click. Che meraviglia. Dai Mario, vieni a trovarci quando vuoi, la prima ora finisce qui. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora io, al contrario dell'ascoltatore di prima che stava andando da Treviso verso Trieste, sto andando dalla Toscana verso Treviso e vi comunico che sulla 1 c'è pieno di camion. Ora vi ragionerò più tardi se anche la parte di là è comunque piena. Ragazzi, dov'è finito il PM10 a Milano? Non se lo sarà mica preso il coronavirus? Eh beh, infatti io non ho capito, è stata criticata Michela Murgia perché è andata da Daria Bignardi e ha detto: sono arrivata con un aereo vuoto, niente traffico, eh. Senti, perché non continua un po'? Ho viaggiato comodissimamente in un aereo semivuoto, sono arrivata in una città senza traffico, le persone normalmente non riesco a fare un passo, invece devo dire che può durare un altro po' questo virus. Vediamo, così dai, mi sembra... diciamo che ci sono dei pro e dei contro. Subito criticata, ecco, a speculare, ma dai, su, ma l'ho detto anch'io, due giorni fa ho detto, ma non c'è traffico, ma che meraviglia, ma che meraviglia, ma si può, oh, ma Leonardo Manera, buongiorno. Un attimo, un momento, non sì. Posso? Aspetta. Sto preparando la colazione qui a Beniamino, mio figlio. Ah. Ciao Beniamino, potete... tutto a posto? Aspetta, aspetta che te lo faccio salutare, aspetta no, no. Che gli metto la cuffia. Sì, sì, ma tranquillo. Uè, Beniamino? Ecco. Ciao! Ciao, tutto a posto a casa? Si comporta sì. Bene papà? No. Come? Dì che ti ho preparato un'ottima colazione. Meraviglia! Cioè, no, scusa, Beniamino, per... qual è la colazione di papà? Sempre la stessa, dillo, dai. Latte con Nesquik e biscotti digestive. No, ma ragazzi, ma è una roba, una mestizia totale. Non è vero, non è vero. Beniamino è un gran bugiardo perché ha dato anche il frullato pera e banana stamattina. Beh, è vero, dai, o no? Dai, buono. È vero? Buono. È vero o no che è il frullato pera e banana? Davvero, gli sta sì, contorcendo vero, il braccio. È vero? È vero? Dillo, dillo che è vero. Vabbè, sì, Beniamino. È vero. È vero, è vero. Quindi dovresti dire, Beniamino, che tuo papà è quello che prepara le colazioni migliori di tutti. È vero. Vero. Come non, è vero? Vero. No. Ecco, niente, maledetto. Non ce la fa, non ce la fa. Beniamino, tu speri che lunedì riaprano le scuole, Beniamino? Per niente, almeno gioca a calcio tutto il giorno. Oh, ecco la voce della verità. Va bene, Leonardo, che dobbiamo fare? Sì, tra l'altro, per ieri la trasmissione sono andato con lui si può giocare. Chiudere qui. È finito. No, ieri sono andato con lui a giocare al parco, quindi per i genitori comunque è faticoso. Anch'io ho fatto due tiri a basket, ho rischiato uno stiramento con mio figlio. Questo. Però Beniamino, la colazione è buona. Ma cosa dici? Vabbè, vabbè. Signori, da Casa Manera è tutto. Leonardo, vuoi aggiungere qualcosa a questo punto? No, sono a posto così. Sei a posto se vuoi, così. Se sì. Peter Bescapè in regia mi fa partire quella bella base che ho portato io, tra l'altro. Non la standee che abbiamo usato per anni. Questa è bella, è rilassante. Allora, sono giorni strani in molte parti, soprattutto del nord Italia, sono giorni di tempo sospeso, in cui la maggior parte delle persone sta bene, non ha problemi di salute, eppure sta lì, ad aspettare che cambi qualcosa. E intanto passano le giornate con meno traffico del solito, con meno ressa sui mezzi pubblici, con le persone che scoprono che quando hanno meno da fare, quando gli orari sono meno incalzanti, quando non bisogna correre per portare i figli a scuola, in fondo... non siamo felici, forse perché l'inattività ci porta al pensiero e allora il problema sta tutto lì, che il coronavirus con i suoi tempi dilatati ci porta a pensare e pensare non aiuta ad avere una vita felice per chi non è abituato a farlo, pensare è difficile, chi da sempre lo fa sa quanto pensare sia spesso fonte di malinconia, ma chi ha tutta la giornata occupata da mille faccende rischia di colpo di trovarsi nel faticoso pozzo del pensiero, dove si può cominciare a vedere tutto con occhi diversi. E allora, dove prima c'erano mamme che, prima di andare al lavoro, guidando enormi SUV nel traffico cittadino, si affannavano per trasportare i figli a scuola, ecco, ora le stesse mamme si trovano a casa, in una calma piatta. E mentre i figli si consumano gli occhi sui videogiochi, le mamme invece vagano su e giù interrogandosi sul proprio matrimonio che fino al giorno prima sembrava sereno e che ora invece di colpo sembra svuotato. Poi ci sono padri di famiglia che sperimentano per la prima volta il telelavoro e invece di vestirsi normalmente come farebbero per andare in ufficio si abbruttiscono invece del solito caffè tra una mail e l'altra Buttano giù un paio di birre e arrivano all'ora di pranzo già ubriachi, perché hanno più tempo per pensare e probabilmente non vogliono farlo, non vogliono pensare. E poi i vigili urbani stressati dal traffico cittadino che ora stanno lì a frandare le braccia senza motivo, come in un rituale consumato da sempre, ma che non ha più senso, visto che le macchine per strada sono poche, sicuramente meno del solito. E baristi che invece di affannarsi a preparare caffè a ripetizione con quel movimento del polso che ormai era diventato spontaneo, non hanno più nessuno a cui dire ciao caro, ciao gioia, come usano fare nei bar qui a Milano. Uscieri davanti a usci vuoti, cuochi non più costretti a sudare selvaggiamente davanti ai fornelli, ballerine che non stanno più sulle punte, comici disoccupati che non hanno più nessuna battuta da dire in teatro. E anche gli animali nei parchi sono più silenziosi, tutto è rarefatto. C'è più silenzio del solito, ma è un silenzio di ingranaggi che si muovono silenziosamente, gli ingranaggi del pensiero che vanno su e giù e ogni tanto si inceppano. Il tempo di incubazione lungo del coronavirus e quella specie di coprifuoco che c'è in certe città sta portando a un sovrappiù di pensiero al quale non eravamo abituati, e dietro le mascherine antivirus certi visi malinconici che si vedono sono quelli di chi si trova forse per la prima volta nella vita a pensare. In fondo il coronavirus è una specie di psicologo che non abbiamo scelto ma che ci è capitato addosso. E allora abbiamo capito che forse il coronavirus non è poi così grave, visto che pensare troppo produce sicuramente effetti più devastanti. Bravo Leonardo, sentivo anche un applauso, vorrei un giudizio di Beniamino su questo tuo meraviglioso pezzo. Passo. Cosa ne pensi Beniamino di questo pezzo di papà? No, ci ha messo impegno perché ieri ho ascoltato tutta la musica. Quindi... Ah, ecco, cioè, insomma, come al solito non ha lavorato. Ma sai che noi lo paghiamo lo stesso, anche se lavora così così? Sì, ovvio, questa trasmissione lo fa solo per quello. Certo, va bene, Beniamino, non devi svelare queste verità nascoste. È bene che rimangano nascoste. E va bene, Leonardo, io non lo so perché tu ti vuoi mettere ogni giorno nei guai con queste situazioni sempre più. Comunque sei in vestagliona. No, stamattina mi sono vestito, però ho un maglione normale, però ho i pantaloni della tuta. E forse poi andrò con Beniamino a fare un picnic se la temperatura lo consente, perché ho visto, occhio, che stamattina c'è freddino fuori. Eh sì, sta arrivando freddo, va bene. Vuoi anche fare un po' di pasta su queste cose? No, vabbè. Allora, no, mi piacerebbe andare a fare un picnic a Imbersago, sai? A Imbersago. Volevi andare a Bergeggi, è arrivato il virus. Il coronavirus. Però, Leonardo, vogliamo salutare, gli rubiamo solo due minuti, Giuseppe Piccarreta con due cellulari. Piccarreta, sì, buongiorno. È titolare di una farmacia a Milano, la farmacia Smeraldo, sì. Ma l'abbiamo chiamato, sì, perché è vero che voi fate i farmacisti, ecco, facciamo i farmacisti, sì, quello, sì, che dovrebbero fare i farmacisti, cioè essere in grado anche di produrre, di mettere insieme le componenti e fare la mucchina in questo caso, no? Perfetto, detto bene. Ed è vero che la date anche gratuitamente a chi allora viene? Abbiamo mandato un messaggio ai nostri clienti con i quali abbiamo un contatto, in quanto sono hanno abbiamo la loro mail, perché hanno la nostra tessera. Gli abbiamo detto: in questa situazione di emergenza, se volete, vi possiamo dare un pochettino di amuchina, cioè di prodotto preparato da noi. Sì. Avevamo terminato anche il contenitore, abbiamo detto: in questa situazione, se tornate con un contenitore, lo riempiamo. Altro che 100 euro su Amazon, esatto, 90 euro. È stato il motivo per cui, diciamo, ho voluto far sentire la nostra presenza ai nostri clienti, proprio per quello, perché visto sui siti e-commerce questi prodotti venduti a delle cifre esorbitanti, mi sembrava una cosa assurda. Visto che spesso ci tacciano di avere dei prezzi più alti del web, sì, e noi non siamo in condizione di avere dei prezzi più bassi, perché naturalmente gli spazi i professionisti li paghiamo. È chiaro. E quindi. Ma noi... senta, è difficile. Ho scoperto che la mucchina nasce tra l'altro da un ingegnere di Altamura dell'inizio del 1900, cioè questo italiano, quindi italianissimo. Ma senta, è difficile produrla a casa, perché comunque bisogna avere un po' di esperienza nel miscelare, immagino. Allora, non è un preparato complicato, però sconsiglio assolutamente di fare delle preparazioni domestiche non avendo le competenze e gli strumenti adatti. Quindi, perché Manera era già lì, Leonardo Manera era già lì, aveva preso tutti gli strumenti. Io sarei curioso di sapere se è vero, come ci hanno detto l'altro giorno, che anche l'aceto è un potente antivirale, se messo sulle mani. Non le saprei confermare questa cosa qui. Non guardi, mi sento di... molti medici hanno detto che è una bufala. Una bufala, cioè non ho una... direi proprio di no. Manteniamoci piuttosto all'alcol come antibatterico, poi con delle dosi abbastanza elevate. Però direi che, come sempre, meglio affidarsi a dei professionisti, a dei sanitari delle competenze. Come Giuseppe Piccarreta, che ringraziamo e lasciamo al suo lavoro. Solo una domanda veloce. Utilizzare troppo la mucchina può avere invece effetti collaterali sulle mani? Si elimina quel film protettivo? Esatto. Questo... Infatti è consigliabile utilizzare anche delle creme idratanti, poi, perché sennò poi naturalmente la pelle si sgrassa. Ce l'aveva da ieri questa domanda, Manera. È terrorizzato per l'uso cospicuo che fa di Amuchina, e ieri ha detto non la userò mai più, cioè non ha la misura. Quando ci si lava eccessivamente le mani succede questo, non soltanto con l'uso della Amuchina o di disinfettanti, e quindi è opportuno poi idratare. Va bene. Grazie dottor Piccarreta, la lasciamo alla sua farmacia Smeraldo, è in via Montegrappa a Milano, per chi fosse insomma di Milano. Dobbiamo andare al traffico, Leonardo. Uno, nessuno, 100 Milan. You know I love that violence that you got when the car wheel blows down. News of the marriage of the socialist money to another one's land. And I put one where it used to stand, yeah. E niente, effettivamente sulla 13 all'altezza di Ferrara, il deserto dei camion. Bene. Allora, io sono in seggiovia, vorrei capire per favore se devo stare un'altra settimana in settimana bianca oppure devo tornare a Milano, per favore. Accidenti, mi fate sapere, ragazzi, qualcosa. È simpatico questo ascoltatore, mannaggia. Non lo so. Il problema so. È che non si capisce mai, si passa sempre da un estremo all'altro. Se domenica scorsa sembrava il dramma della vita, adesso sembra che sia proprio nulla. Nulla. No, titolo oggi del Quotidiano Nazionale: i morti per coronavirus sono zero. Zero, c'è scritto così. Ma come? Ma sì, per spiegare che avevano altre patologie, ho capito, ma non potete dire lo stesso giornale. Conosco e saluto molti colleghi del Quotidiano Nazionale. Titolava domenica: è il panico, con quella famigerata foto di quella signora con pantaloni leopardati che aveva appena saccheggiato un supermercato, usciva che il carrello pieno. Pensa a quelli che sono andati a comprare 100-200 scatole di tonno. Esatto. Se trovano lì. Spero che gli scada. Il tonno scade tra due anni, quindi insomma va bene. Vero che Beniamino si lamenta, ma noi signori, è il nostro scrittore preferito, e quindi noi siamo arrivati prima degli ultimi eventi a chiamarlo. Mauro Corona, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Eccolo qua. Sono un portatore sano di Corona. Nomen. Io vorrei anche far sentire a Mauro Corona padre Livio Fanzaga, ritroviamolo, perché Mauro Corona lo conosce padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria? No, guardi, non ce l'ho con nessuno, ma da quella categoria lì mi tengo a debita distanza. Sì, vabbè. No, perché ieri ha dato un'interpretazione della Corona particolare, no? Non a caso dice si chiama. Senta qua, perché si parla di Corona secondo padre Livio Fanzaga. Sì, voglio sentire. Senta. E quindi è un ammonimento del cielo. Attraverso questa pandemia la Madonna ci dà un messaggio chiarissimo. E forse il fatto che si chiami Corona, perché ha la forma di corona questo virus, è anche un messaggio che la Madonna ci dice: pregate, pregate, pregate, pregate, pregate, preghi. È la corona di Maria, insomma, no, la corona. No, pregato. Sono cose ma sono così, ma non ha parole. Lo scrittore guardi, senza parole rimane guardi, senza parole. Guardi che non sono nuovi quella categoria lì. Quando venne giù il disastro del Vajont, no? Siccome qui vincevano i comunisti a man bassa a Erto, e io fui portato in collegio Don Bosco, non voglio dire la città, ma e lì adombrarono un castigo del cielo, il disastro, 2000 morti, non i farabutti che hanno fatto questo, che era stato un castigo divino perché eravamo comunisti, quindi non sono nuovi a queste stupidaggini. Mannaggia, no, questa non la sapevo, cioè addirittura hanno detto la tragedia del Vajont è legata al fatto che lì siete comunisti. Sì, castigo, lo dissero lì al collegio, e al collegio Don Bosco, lì ho frequentato 4 anni. Senta però Corona, questo cos'è, un impazzimento? No? L'ha visto anche lei che domenica scorsa sembravamo tutti morti e adesso tutti sani? Ma guardi, al di là dei comportamenti di ognuno, della massa che sono stati bombardati da un sacco di notizie, da minacce di epidemie che si moriva in e questa la gente non ragiona con la propria testa. Ma mi sono accorto che nemmeno a livello politico, nemmeno a livello del governo, ci ha preso tutti impreparati e tutti però hanno una finestra sulla visibilità. Almeno io vado a far ridere, vado a fare il comico in TV, non vado a fare il ho scoperto più virologi questo periodo, psichiatri, sì, che si inventano virologi, il virologo che dice male dell'altra virologa, cioè è una cosa quasi indegna, no? Di cavalcare questa faccenda cercando tutti il proprio piccolo spazio di notorietà. Non è così grave, punto. E chi è sano guarisce da solo. Sì, nell'85% dei casi. Sì, è chiaro che colpisce un vecchio come me, che ho 70 anni e sono malato, sono precariamente in salute, è chiaro che non reggo. Questa cosa, sa che gli anziani sono un po' arrabbiati, perché viene detto con soddisfazione da alcuni, ma era anziano, era vecchio. I vecchi dicono, ma ragazzi, ma cos'è, siamo i reietti della società che dobbiamo essere... Questa è una brutta cosa, perché ci sono anziani che ancora, c'è un anziano di Treviso che ha fatto la terza laurea, per dire, no, sono anziani che hanno dei problemi di salute, ma anche l'influenza normale provoca morti quando si attacca a un anziano che non ha più la salute a posto. Ma questo, io non riesco più a aprire neanche i giornali o la TV, una roba. Cioè ci si cavalca su sta cosa. Bisognerebbe dare le notizie con cautela, con precisione, ma con... come senza sensazionalismo, come la Meridiana che dà le ore senza rumore, non fare intocchi, ecco. Invece c'è adesso, e questo qui è anche una novità per poter vendere più giornali, fare più ascolti. Questa è la terra, questa è l'Europa, la patria, l'Italia. È un po', è così. Cosa bella. No, è vero, è un po' così. Leonardo Manera qui vociferava, dice bisognerebbe fare, come ironicamente, il format di un reality tampone show. Tampone in diretta. Tampone in diretta, ma tra un po' qualcuno ci penserà a farlo. Sì, ma poi c'è anche una certa, diciamo, maleducazione o cattivo stile. Io non sopporto un D'Urso che dà del tu a Conte. Cioè questa lei cosa... ci conosciamo, le do ancora del lei alla Bianchi, cioè come si fa a prendere Presidente del Consiglio e dire tu? Ma veramente non c'è più il rispetto, quella forma di educazione istintiva. Se io le do un piatto di spaghetti a un bambino, non va a mangiarli nel cesso. Ecco, questo istinto di avere le misure, no? Non c'è più nulla. Siamo un popolo irrazionale. Però mi incuriosiva questo, Corona, visto che lei dice sempre l'economia di montagna, in difficoltà, eccetera, giustamente, non è che in questa situazione invece l'economia, quella di montagna, l'economia, la piccola economia, il piccolo commerciante si salva, è un punto un po'... Sì, ma per quanto si salva, fin quando finirà, io ho dato tempo un mese a questa faccenda di svilupparsi, o si va di qua o si va di là. La piccola economia sì, in un paese come Erto, ma nei grandi centri di turismo è lì a man disdetto tutto. Però al di là dei morti, per carità, anzi, ci ha fatto un po' anche bene questa cosa, ci ha ridimensionato un po', ci ha fatto vedere che non si vive solo di soldi o di turismo, perché là dove hanno disdetto devono andarsi in altro modo, devono inventarsi il trascorrere di questo tempo delicato, e quindi da un lato ci ha fatto aprire gli occhi, ha fatto vedere anche la nostra vulnerabilità, la nostra disorganizzazione. Sì, è stato un po', poi, è stato un po' uno schiaffo in faccia. Insomma, diciamo. Poi c'è questo ignobile commercio, le mascherine a 200 euro, ma sì. No, l'Italia questa volta ha dato la misura di se stessa, in generale. Non è un gran complimento. Finirà, Corona, come finirà adesso? Cosa succederà? Pare io l'altra sera... alla signora lì ho dato un tempo di un mese. La io bianchina penso che in, è la signora, la bianca in un mese, sì. In un mese evolverà, io penso, in positivo. Però bisogna aspettare un mese perché per capire, insomma, cosa succederà, non prima. Sì. Io penso che finirà, riusciranno a imbrigliare questi segnati, diciamo, da questo virus. Mi meraviglia, ieri ho sentito una puntata che c'era un tizio che diceva: non mi piace questo cognome, questo nome del virus, Corona. Non so a chi si riferiva. Non lo so. Guarda, infatti c'è un ascoltatore che ci scrive: mi chiamo Giuseppe Corona, ormai ho sentito così tante battute uguali sul mio cognome che inizia a dire di trovare nuove battute perché non se ne può più. Ma anch'io, ma fossero state battute, perché se la battuta è sagace, intelligente, caustica, ma invece sono di una banalità che riuscirei perfino a coniarle perfino anch'io. Cioè, uno incontra Mauro Corona e dice: c'ha il virus Corona, vabbè, ma dai un po' di fantasia, cavolo. No, ma il bello che le dicono con gonfiando il petto, come a dire: questa volta lo faccio ridere. Va bene. Sa cosa diceva un mio amico che è stato il mio maestro, del quale sto scrivendo la biografia. Diceva: maledetta l'ignoranza mal distribuita. Attenzione, sta scrivendo la biografia di chi? Voglio saperlo. Di questo personaggio che ha attraversato la mia vita come una meteora, il paese, un filosofo di un acume, si chiamava Celio, perché era nato sui prati della palazza, la mamma stava falciando, e lo sollevò verso il cielo e lo chiamò Celio. Bello, Celio. E quindi a me è stato un maestro di tutto, di arrampicate, di vino, di donne, di tutto. Sì. Sapeva fare tutto. Tutto. Però si era lasciato andare. Stupendo. Si era lasciato andare. Adesso non si possono fare battute, ma lui era un arrampicatore eccezionale, no? Però le donne lo piantavano perché beveva, era in gamba e si era buttato così. Ed era convinto che la donna che era capace di arrampicare era anche brava, diciamo, nell'amore. Sì. Allora mi dice: Mauro, le femmine prima prole sul dretto e tu sul piano, prima provale in verticale e poi in orizzontale. Cioè, se sanno scalare, ci saranno anche dei detti molto volgari, immagino. Poi l'esperienza mi ha detto che non è così, però insomma. Ma ci mancherebbe, insomma. La trovata era bella. Sono dei luoghi comuni. Va bene, Mauro Corona, grazie. Ci troviamo presto. Quando uscirà poi la biografia, la vogliamo assolutamente presentare. Questo filosofo deve essere stato una persona che ne sapeva di molte. Caro Leonardo. Noi italiani non abbiamo dato una grande prova in questo periodo. Sia quelli che sono andati a accaparrarsi scorta al supermercato, anche dove non ce n'era bisogno, a Ischia, dove alcuni sono stati accolti malamente, al nord, al sud, e anche Mauro Meazza, che ha cercato di lucrare col suo A proposito, volevo sapere questo, ma quel cucchiaio di sostanza marroncina che hai aggiunto al latte con Nesquik a Beniamino, era mica un cucchiaino di elisir del dottor Meazza? Sì, alla fine mi sono fatto infinocchiare anch'io, perché ho detto: non ci credo, però però proviamo, perché se, male lo, be- non fa. Se lo bevi male riaprono le scuole, per esempio, potrebbe essere, certo, una sol- uno degli effetti dell'elisir Meazza, potente contro qualsiasi problematica, il problema della vita. Sì, sì, va bene. E infatti Mauro qui sogghigna sotto i baffi che non ha. Va bene, andiamo a sentire la borsa. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, dai, a Lucca c'è di peggio. C'è un signore che ha speso 3.200 euro in alimentari al supermercato S Lunga qua di Lucca. Pazzesco. Allora, dobbiamo chiarire questa storia dell'aceto, perché anche su Twitter dicono: ma come, proprio voi avete detto che l'aceto serve? Lo ha detto un ascoltatore che si è qualificato come medico, dicendo serve l'aceto, e poi tutta una serie di medici ci hanno chiamato dicendo: ma no, ma l'aceto, anche il farmacista di prima ha detto l'aceto non serve a niente. Che dobbiamo fare? Non è che possiamo controllare, no, almeno, se scusa, uno ci chiama e dice una cosa, registriamo dicendo sì, vabbè, appureremo. Ma almeno nell'insalata serve l'aceto, sì, o è inutile? Balsamico. Balsamico, io ormai sono convertito al balsamico da anni. Sai che, per esempio, c'è un mio amico, è un mio caro amico, che se sente l'odore dell'aceto anche in lontananza è un po' come te a Pienza sul formaggio. Cioè, proprio se lui sente anche sulla tavola un vago sentore di aceto, deve allontanarsi. Ma vabbè, guardi, veramente l'aceto, ecco, veramente parliamo di aceto. Volgare, l'olio, no, l'aceto, l'insalata. Volgare, però io un po' fame. Va bene, allora, noi dobbiamo tra qualche minuto lasciare a Nicoletta Carbone, che risponderà alle vostre domande che vengono mandate al... Allora, guardi, non mi faccia dire queste cose. 335, non saprei. Vabbè, 335-100-6297. Voi mandate. È facile come numero, Bernardo Ferruccio, non Chibano Chele. 335-100-6297. Mandate queste lì. Queste cose pratiche mi fanno orrore. Oh. La praticità, la vabbè, vita così. Senta, la vita per i suoi problemini pratici. Mamma mia. Se ho capito bene, si aggirava dalle sue parti anche il professor Janssen. Ma cosa hai fatto? È venuto a mangiare nel suo ristorante, il nostro mitico psicologo che... No, che... lei ha capito male, guardi, non conosco queste persone, non capisco da dove derivi questa sua malsana idea, professor Janssen. Ma chi è? Un reietto della psicologia. Va bene, cuoco nostro minore. Allora, cuoco, sì. Come sta? Ma come sto? Guardi, io ogni sera apro le porte della mia dimora culinaria. C'è chi mi chiama chef emozionale, chi mi chiama maestro, genio, qualcuno mi chiama al di là. Al di là. Chi viene da me, trova il paradiso. Mi dico buongiorno al di là. Ecco, io apro le porte della mia dimora culinaria e mi diletto ad ascoltare i desideri gastro-emozionali dei miei avventori, finché non mi dicono: è il compleanno di mio marito, ci pensate voi? Alla torta, la torta. La torta, cioè, un ottimo. Con la panna, le candeline. Bene. Ma perché festeggiare l'inesorabile decadimento psicofisico? Che no. Allora io ogni volta devo spiegare che il mio non è un ristorante, no, è un condensato di straordinario per superare l'ordinario. Beh, e non posso superare l'ordinario se devo spegnere la luce e portare dentro una torta con le candele, con la foto magari di un settantenne in marciapane. Ma scherziamo, che volgarità. È un altro approccio. I nostri avventori partono dal cibo, se così vogliamo chiamarlo, e si interrogano sulla sorte dell'umanità. Dove andremo? Dove andremo quando non avremo più un pianeta? Ma soprattutto dove andrò io quando dovrò vendere la casa per pagare il conto? Un conto da 300.000 euro per una cena può spaventare, ma non è forse molto più spaventoso chiudere la porta? È una domanda che faccio agli ascoltatori: chiudere la porta alle emozioni. Io, pur di non pagare, ho visto un timido padre di famiglia trasformarsi in lanciatore di coltelli. Lanciava coltelli verso la cassa e intanto scappava verso l'uscita. Che piccolezza! Ma oggi voglio mangiare un riso al salto, vai al self-service con i vassoi marroni effetto radica, noi prendiamo il riso, lo appoggiamo su una mensola a 4 metri di altezza, ti mettiamo in mano un'aste e se hai fame lo vai a prendere. Qual è il vero riso al salto? Emozionante ed emozionale. E c'è chi riesce a... Vabbè. Allora, siamo quasi in chiusura, voglio dargli una delle mie creazioni. Creazioni, sì. Il titolo è Al centro della metamorfosi. Al centro della metamorfosi. Esattamente. Allora, gli ingredienti sono un atomo di carota, un atomo di sale. Se non riuscite a misurare l'atomo a occhio, potete aiutarvi con la bilancia pesa atomi, che sicuramente avrete in cucina. Allora, la carota, che stimola la bronzatura, rappresenta la scelta di cambiare colore, il cambiamento e quindi l'arte. Il sale, che è un cristallo trasparente dalle mille sfaccettature, ci ricorda il diamante, quindi il denaro. A questo punto prendete le pinzette per le sopracciglia, che sicuramente avrete in cucina, raccogliete l'atomo di carota e poggiatevi sopra un atomo di sale e... voilà. Ma come voilà? Pensavate di aver condito una carota, invece avete scritto sì. Il saggio definitivo sul rapporto tra mondo dell'arte contemporanea e potere. Ma no, è un atomo più che altro. No, cioè, no. È una metafora del rapporto tra arte e denaro, arte e potere. Ma vabbè. Non pubblicatelo su Instagram se non volete essere chiamati a parlarne in convegni internazionali come succede a me. Tutto questo per una cifra, diciamo. Facciamo uno sconticino oggi, visto che è un po' un periodo di crisi, facciamo 220.000 euro. Vi aspetto al desco di Nietzsche, la mia dimora culinaria. Potete trovare sul sito tutte le spiegazioni, trovate anche il modello ISEE precompilato da allegare la prenotazione. Sì, va bene, signor, al di là la salutiamo, Fernando Ferruccio Ronchi Baronchelli, il nostro chef emozionale. Saluti anche da mia moglie, Maria Assunta Benedetta Intingolo Paciulli. Va bene, concludiamo qui la trasmissione di oggi, lasciamo a Nicoletta Carbone e alle domande al 3351006297, dopo il traffico risponderà con gli esperti. Qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori. Nessuno, 100.000.